roncong asli. Hey, hey. Tua dan muda, hey. Senang di hati. Ini lagu geroncong asli. Tua dan muda, senang di hati. Ini lagu geroncong asli. Tua dan muda, senang di hati.